Yan Yun si innamorò di me il giorno del suo 24esimo compleanno. Era un ragazzo alto come una montagna e con il viso danneggiato da un'acne che gli aveva lasciato dei segni simili a quelli del vaiolo. Alto come i cinesi del nord, una pelle bianchissima e spalle forti, corporatura solida, sguardo fiero. Ci eravamo già parlati, per quel tanto che il suo riserbo gli consentisse. Sentivo il suo sguardo che mi accoglieva quando la sera rincasavo. Parcheggiavo la bici e mi fermavo a ritirare la posta. Mi salutava da lontano e soltanto se dal mio viso non deducevo la stanchezza di una giornata impegnativa, si assumeva il rischio di avvicinarsi per fare due chiacchiere. Due, non una di più. Nessuna confidenza, mai un sorriso eccessivo. Se tornavo da una lunga assenza, si offriva di portarmi la valigia fino al terzo piano. A volte pensavo a quel suo modo delicato di farsi notare e mi veniva da sorridere. Era come una specie di angelo custode. L'ultimo anno di università all'Istituto Orientale di Napoli si svolgeva un pochino con questa preparazione per le grandi borse di studio. Chi si preparava per la Cina, chi si preparava per il Giappone, chi si preparava per l'Indonesia, per la Thailandia. E io sono partita nel mese di ottobre dell'89. Non appena arrivavamo a Tokyo, in questa casa dello studente, ci veniva affidato uno studente che era un tutor. A me è stato affidato uno degli ultimi soldati che aveva partecipato alla guerra del Vietnam, giovanissimo. Poi un giorno mi stupì con l'invito a cena per il suo compleanno. Lui ci tenne a precisare che ci sarebbe stata tutta la comunità e che io ero l'unica straniera. Lo disse senza fronzoli, come era suo costume, ma compresi che era un onore. E quindi primo scoglio di disagio però, sedere alla tavola di una casa in cui le donne, benché giovani studentesse come tutti noi, restavano in cucina a friggere e lessare quantità enormi di ravioli. Io sola ammessa al tavolo degli uomini, con divieto assoluto di muovere anche un dito per aiutare a servire. E poi secondo scoglio di disagio. Leggere nel fondo di quegli occhi a mandorla la curiosità silenziosa per l'ospite straniero. Alcuni li conoscevo già di vista, soprattutto le donne. Per la maggior parte di Pechino e qualche studente di Shanghai. Nessun taiwanese, nessuno da Hong Kong. Con questi ultimi avevo più dimestichezza, erano meno cinesi degli altri, abituati da sempre al contatto con l'esterno. Era un terreno più facile. E fu così che per spezzare l'imbarazzo mi infilai in un tunnel veramente pericoloso. Avrei dovuto parlare del tempo, delle abitudini alimentari del mio paese, lo so. E invece chiesi di raccontarmi dei giorni delle barricate. Cadde il silenzio. Poi Yan cominciò a parlare. Non era un caso che tutti loro in quel momento fossero lì, all'estero. Erano tutti figli di qualcuno che contava. Parlava con lentezza, con dolore, con la vergogna che è il più bello ornamento degli orientali. Un po' alla volta cominciarono a parlare tutti. Ognuno aveva un dettaglio, un ricordo, una perdita da colmare. E poi all'improvviso di colpo si fece di nuovo silenzio. Era arrivato l'ospite necessario, quello non desiderato. Di lui ricordo lo sguardo cattivo e il viso affilatissimo. Magrolino e basso, sgradevole. Sembrava il bambino spione che tutti abbiamo incontrato a scuola e che un giorno poi ritroviamo sul lavoro o altrove. Scoppiò a ridere, sicuro di aver interrotto una conversazione proibita. Io presi coraggio e dissi: «Parlavamo dei fatti della primavera scorsa». Lui rise e aggiunse: «Nessun fatto, nessuna primavera. Voi occidentali avete buona fantasia». Yan abbassò la voce e mi disse in francese, in un francese maldestro, che era meglio se stavo zitta. La serata passò. Centinaia di ravioli e silenzi pesanti. Porsi le mie scuse a Yan il giorno seguente e lui mi spiegò che quel tipo era figlio di un ambasciatore, nipote di un ministro, che la sua famiglia contava più delle loro, fedelissima al regime, e la sua presenza tra noi non era casuale. A me non è mai piaciuto perché non mi piacciono gli asiatici, non mi piacciono fisicamente, ma soprattutto una grossa difficoltà di relazione. Soltanto che io ero spaventatissima da questa possibilità ed ero anche spaventata dalla possibilità di dover affrontare un discorso per respingerlo. Yan Yun si innamorò di me, ma non varcò mai la soglia della dissidenza, nemmeno quella affettiva. Ogni parola, ogni ombreggiatura delle ciglia diventò una carezza. Ogni invito a cena portò in sé un piccolo germe di rischio e un avvicinamento che non sconfinò mai in nulla di proibito. Ho una foto bellissima che ci ritrae su una scalinata la sera degli addii. la mia testa appoggiata sulla sua spalla e il suo faccione grande sorridente. E un'altra ad una festa di soli occidentali, con un bicchiere in mano e un'allegria un po' triste. Poi le nostre strade si divisero. Per un paio d'anni mi telefonò una volta al mese. Mi chiedeva cose semplici del tempo, dello studio, della mia vita. Telefonate brevi, di un'intensità che si trasmetteva oltre le parole e non necessitava dettagli. Poi smise.